perché l'arrivo massiccio delle app, delle applicazioni mediche, come dispositivi medici, non le app in senso generale, perché quelle sono truffe, e anche come dispositivi infermieristici, modificherà, sta modificando nei contesti sostanzialmente, diciamo, più evoluti, che in questo caso è sicuramente l'America, gli Stati Uniti d'America. Ormai questo è un dato di fatto, tant'è vero che l'inclusione e esclusione sociale passa attraverso l'online. Chi è online è comunque incluso, chi non è online è escluso per statuto costitutivo. Poi c'è chi è online che è ai margini, ma non è escluso, e quindi questo diventa un segnale fortissimo di cambiamento sociale rispetto alle nostre modalità tradizionali. Ma quello che io lì avrei voluto sostenere era che non ci troveremo più di fronte al rapporto tradizionale ultimo, che era quello del rapporto fra medico e cittadino, e abbiamo portato avanti insieme ad Ardigò l'empowerment, perché tanto ormai siamo schiavi di questa dinamica, c'è poco da fare, di questo modo dispositivo e di questo rafforzamento del ruolo del cittadino nei rapporti col medico, no? Sappiamo che ci sono stati ciarlatani, ci sono stati i medici paternalisti, insomma c'è stato un po' di tutto nella storia di 100-150 anni di medicina, perché finché non c'è una facoltà di medicina i medici di fatto non esistono, con buona pace di Ippocrate non esistono, perché sennò non c'è la copertura sociale, la garanzia che puoi fare certe cose, insomma non ci sono i diritti, quindi non c'è nessuna garanzia di questo tipo. Adesso invece ci troviamo nella situazione in cui con queste app si capovolge la situazione. Il cittadino diventa gestore attraverso il quantified self della propria situazione. Un'app che voi potete mettere qui vi evita di andare a fare gli esami del sangue, vi evita di fare tutta una serie di esami che sono fatti automaticamente attraverso questa app. E quindi solo nel momento in cui questa app sballa, voi decidete come cittadino di andare dal medico, ma arrivate dal medico avendo già voi deciso tutta una serie di cose e avendo deciso soprattutto questo. Poi potete anche condividerla la situazione, ma siccome ovviamente siete coloro che anticipano l'evoluzione della eventuale salute malattia, questo cambia le modalità, le cambierà tendenzialmente sempre di più. Ecco, non mi occuperò di questo. Mi occuperò di un tema sul quale ho riflettuto poco, ma di poco nel senso che merita ben di più di quello che io dirò, e cioè il problema dei diritti in sanità rispetto al problema del diritto alla salute, e cioè il problema che incredibilmente è tornato di moda, che è quello dei vaccini, perché il tema delle vaccinazioni è un tema cruciale sul per quel che ci riguarda. Questo corso è un corso che non è nato sicuramente con questa prospettiva interiore o ipotizzando, ma nella sua evoluzione, il corso cos'è stato concepito un anno fa, sì. Quindi era un tema ancora non all'ordine del giorno. Io che sono figlio di povera gente normale che viveva nelle campagne del Mantovano e che purtroppo facevo le elementari negli anni 50, all'inizio degli anni 50, in classe mia eravamo in 32. Di questi 32 c'erano 8 poliomielitici e 5 vaiolosi, che vuol dire, tradotto in soldoni, 8 che non erano stati colpiti alla testa, quindi potevano fare elementari, ma erano sciancati sostanzialmente. Non so se avete presente cosa succede, no? Con la poliomielite, manchi una gamba, non sposti un braccio, insomma situazioni le più diverse, e ce n'erano 8 e 5 col vaiolo, che erano butterati, 3 su 5, me lo ricordo ancora, erano ragazze che saranno segnate per tutta la vita esteticamente. Oggi non lo so se con la chirurgia estetica dove si arriva. Ecco, allora questo mi è rimasto impresso, perché per uno come me l'imprinting che era i vaccini storicamente definiti come tali, non accedo a nessuna ipotesi di medicalizzazione della vita attraverso i vaccini, perché allora ti vaccini su tutto. Magari ci fosse il vaccino sul tumore al seno, che non c'è, ma ti vaccini su tutto. E no, non è questa la mia posizione. La mia posizione è quella di capire i vaccini cosa rappresentano in questa logica del diritto, che vi ricordo nella cultura però liberal democratica, perché ormai non è che c'è molto da dire, queste sono, il mondo si è ridotto a poche culture che rispettano questo. Noi possiamo discutere di queste cose solo perché siamo in un regime liberal democratico, se no figuratevi in altri regimi se si può discutere di questo. Allora, il diritto è sempre associato a una logica di dovere, cioè noi ci troviamo un diritto barra un dovere, non è che c'è solo il diritto, sennò è evidente che una società non starebbe insieme. Allora è evidente che la logica del vaccino si trova a cavallo, no? Del vaccino, no? Si trova a cavallo tra un principio che è quello del diritto alla libertà. No? Quando Pizza dice si può rinunciare al trattamento sanitario in funzione del principio di libertà che è sancito dalla Costituzione, si riferisce a questo. Ma c'è un altro principio fondamentale, che è quello, diciamo, del dovere connesso a questo, che è il principio che, insomma, non bisogna infettare gli altri, perché noi la peste non ce l'abbiamo più. Ma se uno fosse ammalato di peste, non è che c'erano molte alternative, li ha preso, come sapete, e portato via. E se ci fosse stato un vaccino per la peste è andata via per altre ragioni sanitarie, sociali, le famose cloache che i romani avevano fatto e che poi si erano perse con la cultura medievale e che poi nel 700 con l'illuminismo sono tornate a attraversare le città d'Europa, e da lì sono mancati dei meccanismi per cui la peste si potesse, ma se oggi ci fosse questo problema, uno di noi, considerando che la peste faceva fuori il 40% di popolazione in qualche mese, il 40, e non è che guardava in faccia vecchi, giovani e bambini, faceva, come dire, uccideva indifferentemente senza stratificazioni sociali specifiche. Quindi c'è anche il dovere di curare se stessi e di non infettare gli altri, oltre certi. Quindi ci troviamo a cavallo di questo. La società si è già difesa ripetutamente rispetto a queste dinamiche. Io non la farò molto lunga perché dopo gradirei che ci fosse del dibattito. Tra l'altro ci sono colleghi, amici, giovani, meno giovani, insomma qui c'è da discutere, non è che io un po'. Allora, Pizza forse si è dimenticato, prendo Pizza perché è un bel modello, perché il Presidente dell'Ordine dei Medici non è che ha parlato uno che passava di lì. Allora, forse si dovrebbe ricordare Pizza che noi abbiamo il TSO, che se non ricordo male è una sorta di violenza che viene fatta a uno che viene considerato matto, e si chiama trattamento sanitario obbligatorio. Io ce l'ho in mente nel caso specifico, perché ovviamente in quel caso è conclamato. E perché si fa il trattamento sanitario obbligatorio? Perché questo, se non va in giro ad ammazzare la madre, il vicino di casa, non so, è una difesa sociale che in qualche modo viene fatta. E in questo caso capite che la società ha deciso democraticamente, io non parlo di regimi non democratici, perché se non sono democratici allora, come sapete, si fa di tutto e di più, andate indietro nella storia, non so, i civilissimi svedesi facevano fuori gli handicappati nel 1920 o 30, quindi voglio dire, non è che ci dobbiamo, vabbè, già tempo, motivandoli in vari modi diversi tra di loro, greci e insomma la cultura greca in qualche modo era della stessa direzione. Allora, vedete, prevale il diritto della collettività. Quindi non c'è solo il problema dell'alternativa fra diritto e dovere, che pure è strutturalmente intrinseco nella nostra società e quindi nella sanità, ma c'è anche il problema della prevalenza del diritto come collettivo e di quello individuale. Perché io sostanzialmente obbligo al TSO, come obbligherei a qualche forma di intervento se ci fosse la peste, perché prevale, vale prima in anticipo, il diritto collettivo di salvaguardare la società nel suo insieme, con le motivazioni che possono essere più diverse nel caso del TSO ovviamente se ci fosse qui uno psichiatra saprebbe meglio di me. Ecco. Allora, cosa e cosa, in che modo insomma la società è andata avanti legiferando? La dico molto semplicemente, ma è andata avanti legiferando sostanzialmente facendo prevalere tra vantaggi e svantaggi degli interventi sanitari, tentando di far prevalere il beneficio maggiore rispetto allo svantaggio. Quando il beneficio è maggiore si tende, poi tutto il tema della medicalizzazione entra in gioco, perché come sapete in qualche caso il famoso accanimento terapeutico o la medicalizzazione come consumismo sanitario, come investimento in farmaci che non servono a poco a niente pur di guadagnare, pur di portare a casa una logica profittuale, sappiamo che c'è e nulla che ci stupisce. Allora voi capite che in questo caso noi abbiamo accettato storicamente il principio dei vaccini, storicamente in democrazia sempre, ma però poi come sapete il caso dei vaccini è un caso sufficientemente esteso al mondo, e dove non ci sono i vaccini è perché non ci sono le risorse per averli. E quindi, ad esempio, come vi dicevo, non so, il vaccino della poliomielite, che per la verità oggi non è messo molto in discussione, è stato talmente vantaggioso che, no, ripeto, io avevo su 30 ragazzi, avevo 8 amici e bambini, di cui 4 sono morti, 4 sono ancora, sopravvivono, ma sempre con le loro drammatiche menomazioni e disabilità. E allora si è deciso socialmente che i benefici che i vaccini apportavano erano talmente vantaggiosi rispetto al resto che addirittura si è arrivati a una forma di imposizione sociale, perché oggi noi non ci ricordiamo che per la verità fino a, mi ricordo, metà degli anni 70 era obbligatorio, punto e basta. Non è che venivamo da esperienze politiche diverse in cui non è che c'era molto da andare a chiedere, perché i vaccini nascono in un periodo in cui le società europee erano molto autoritarie, chiamiamolo così, senza scomodare Hitler ovviamente. Ma da questo punto di vista poi alcune di queste cose sono perse. Il vaiolo mi pare che sia, come si dice, estirpato, non c'è più, non appare più, e quindi non... Altri invece sono tornati. Ma i vaccini hanno un altro problema, come sapete e come è abbastanza assodato, è quello che dico sinceramente. Oggi tra l'altro leggevo due interviste di due che sono stati radiati dall'ordine e che nessuno contesta il principio scientifico. Questo mi ha colpito, perché se non contesti il principio scientifico poi allora perché? Perché se togli quello è difficile sostenere. Insomma, la copertura però di queste malattie, se si ripresentano, nel caso del morbillo, deve essere superiore all'80%, altrimenti non funziona il meccanismo sociale generale. Per cui diciamo bisogna avere una copertura sociale complessiva superiore all'80%, altrimenti il morbillo si ripresenta, eccetera. Il morbillo non è così drammatico come altre forme di, come dire, di malattie che richiedono la vaccinazione, però tendenzialmente resta una malattia che può fare danni, porta alla morte in casi rarissimi, quindi non è questo il punto. Allora, il diritto alla salute in questo caso diventa un diritto incrociato, adesso non ho la slide, se no era più semplice da capire, nel quale io ho un dovere personale che rimane in democrazia. Questo dovere personale lo posso incrociare con un diritto personale. Questo, il rapporto che si instaura nel caso della salute, è puramente di fiducia. Io copulo maschio con una donna e ho l'AIDS, la infetto, ma il rapporto è di fiducia. Poi, come sapete, ci sono gli interventi di vario tipo, di natura giuridica, un arrestato, colpevole, eccetera, però il rapporto è di fiducia. Cosa succede quando il dovere personale si incrocia con un diritto sancito socialmente? Il dovere, diciamo, personale si adegua, non ci sono eccezioni di sorta. laddove il TSO c'è, laddove i vaccini sono obbligatori, laddove qui, laddove là, laddove su, laddove giù, poi ci possono essere delle deroghe, ma sostanzialmente è il diritto collettivo che prevale, la decisione sociale generale che prevale sull'orientamento del singolo soggetto. E quindi c'è una sorta di adeguamento. Cosa succede quando il diritto, questo diritto si incrocia con un dovere socialmente condiviso? Vabbè, allora è banale dire che la decisione legislativa si incrocia con gli orientamenti personali, non c'è più deroga e automaticamente uno rimbalza all'altro, quindi in quel caso è banale. Cosa succede nel caso in cui, ultimo, il diritto alla sociale si incrocia col diritto personale? Ecco, tendenzialmente in questo caso si ricorre a forme di sanzione ex post. E il dibattito forse in questo momento è tutto lì, perché laddove c'è orientamento di diritto sociale con i doveri sociali coincide, non c'è dibattito. Laddove il dovere personale si incrocia col dovere personale, col diritto personale, no? È evidente che il problema si rapporta secondo logiche di fiducia personali, lì non è che ci puoi fare molto dopo, ma funziona così. Laddove invece il dovere personale, cioè l'orientamento, il sistema di valori del soggetto, si incontra con gli orientamenti di diritto che la società ha deciso, l'esempio dicevo del TSO ma anche dei vaccini storicamente, il dovere normalmente si adegua. Come poi questo accada è oggetto di discussione, evidentemente questo può accadere, non è che puoi mettere tutti in galera, normalmente una democrazia è un po' più lenta e riflessiva in queste decisioni, però alla fine se c'è una legge collettiva prevista, il caso della peste è emblematico, se oggi ci fosse ancora il rischio della peste ci sarebbe una legge durissima che dice bisogna vaccinarsi se no si prende la peste, come sarebbe stato utile 200-300 anni fa, soprattutto nel periodo medievale, la famosa peste nera che oltretutto si espandeva, che notate bene, allora si espandeva con i cicli e gli spostamenti che c'erano allora, perché oggi che si esploderebbe, sarebbe una peste nera che invade il mondo, allora ci si spostava, no, in pochissimi, facendo lunghi percorsi, insomma era un'altra situazione, eppure i milioni di morti fatti in Europa furono milioni per rimbalzi continui. Quindi in questo caso, dicevo, la situazione probabilmente più, sulla quale si discute di più è laddove c'è una sorta di dovere sociale rispetto a un diritto personale, perché il diritto alla libertà e all'autonomia è chiaramente il diritto fondamentale di una democrazia, su questo non ci piove, se viene meno questo eccetera. Però in questo caso si va a incrociare con questo dovere sociale che è la protezione collettiva, che se è necessaria deve essere in qualche modo sancita, sancita nel senso rispettata da un punto di vista sociale. Allora qui si entra normalmente nella logica di alcune sanzioni eventualmente gestite ex post. Ecco, quindi il tema, dei vaccini è un tema che incrocia questi tipi di tematiche, ma è un tema al centro della riflessione e del dibattito sul diritto alla salute, che non è solo il diritto a essere curati, assistiti, sarebbe semplice se fosse così. Questo è un classico esempio di diritti in sanità, di diritto alla salute, diritto di protezione sociale collettiva, mettetela come volete, ma attraversa in maniera specifica. Ripeto, noi però lo affrontiamo dal lato dei vaccini, ma questo è un principio generale, è l'esempio che vi facevo del TSO, è un esempio emblematico, potrebbe riguardare chiunque altro, se uno avesse una malattia infettiva, come sapete, anzi quando ci fu il periodo, il boom, dell'AIDS, hanno costruito un sacco di reparti per gli infettivologi, poi le medicine hanno risolto il problema in un altro modo, adesso lo riciclano, ma il principio era sempre quello, non infettare, non intervenire e possibilmente prevenire. Ecco, io mi fermerei qua perché so già che qualcuno di voi interviene e se facciamo un po' di dibattito prima di alle 5:30 di passare alla seconda parte, diciamo, del nostro pomeriggio, prego, a voi. Se no vi invito io a parlare, perché tanto lo so che, ad esempio, il professor Carlo Anao, perché non parla? Parla. Lui è un grande personaggio della nostra cultura sanitaria locale e sovralocale nazionale, che si è occupato a fondo e in maniera intelligente, ci siamo incrociati per quello, con il tema della disabilità. E già lì, anche lì, il problema dei diritti, cosa dover fare obbligatoriamente a un disabile, cosa non fare, eccetera, è un altro tema che potrebbe andare nella stessa direzione. Prego, professor Anao, che è professore della nostra università. Prendi quello. Tu vuoi dire qualcosa? No, non vuoi parlare tu. Se vuoi parlare. Prego, sì. Io ringrazio molto perché si sente così, sì, perché sì. Si sentiva male prima. Prova ad avvicinarmi di più. Meglio così o peggio? Peggio. Allora, e se facessimo... Cioè, allora, no, io in questa sala ho fatto il consigliere del quartiere all'inizio degli anni 70. Anche quella hai fatto. Ah, pure quella ho fatto. Ecco, sul tema delle vaccinazioni, in effetti, io sono abbastanza attento, ma non da adesso, da una trentina d'anni, perché il tema della vaccinazione ha in sé un aspetto etico importante. Cioè, proprio perché esiste l'immunità di gregge per alcune patologie, per alcuni virus, quando un bambino viene sottratto alla vaccinazione, ed è però in un gruppo, in un gregge, così si chiama, che è vaccinato, quel bambino non ha praticamente nessuna possibilità di ammalarsi, finché è in un gruppo di persone, di bambini come lui e di persone che hanno questa immunizzazione. Perché la vaccinazione del 95% delle persone impedisce la circolazione del virus. È vero che quando viene poi qualcuno da fuori, è vero che poi quando lui va in Africa, è vero che poi si espone a... Però se quello non va in Africa, continua a stare insieme a compagni che sono stati vaccinati, lui ha i vantaggi di quelli che sono stati svaccinati. Dall'altra parte però noi sappiamo che, come tutti gli interventi sanitari, esiste anche per la vaccinazione un effetto collaterale, cioè l'effetto non voluto. Noi sappiamo che un caso su 500.000, un caso su 100.000, un caso su 50.000 per alcune vaccinazioni, a seconda delle vaccinazioni questi numeri cambiano, i risultati sono purtroppo un dramma per il bambino. Spesso si risolve tutto con piccole cose, innalzamento della temperatura, qualche strillo, è chiuso lì. Ma come dico, uno su tot mila vaccinazioni può portare addirittura a morte, oppure anche, che non è certo da meno, una disabilità permanente grave. Io mi ricordo che proprio all'inizio di quando facevo i diritti del malato, ci fu un caso di un bambino che ha fatto allora la vaccinazione del vaiolo. Questo era un bambino perfettamente sano. Dopo aver fatto la vaccinazione del vaiolo ha cominciato a dare i numeri. La mamma l'ha portato dai medici subito. I medici non si sono accorti che la vaccinazione aveva provocato, ricordatevi che il vaiolo era un vaccino con virus attenuato ma ancora vivo, non si sono accorti che questa vaccinazione aveva provocato un'encefalite, che questa encefalite aveva provocato a sua volta una situazione nel cervello di eccesso di liquidi che andavano a comprimere la corteccia. Ecco, con questo meccanismo, che avrebbero potuto i medici contrastare facendo un sunto, un buchino, no? Che sfoga questo liquido in eccesso e la pressione, avrebbero potuto risolvere il caso brillantemente. ma non si sono accorti che questa vaccinazione aveva avuto su di lui questo effetto. Conclusione, il bambino è diventato un bambino con autismo, perfettamente sano prima, è diventato con autismo dopo. Poi la mamma è stata mandata a fare la psicoterapia psicodinamica, perché quando il bambino aveva l'autismo si diceva che la colpa era della mamma, ma queste sono cose, per fortuna, nel 90% dei casi relegate nel museo degli orrori del passato. Sta di fatto che la mamma, quando il bambino che ha continuato la sua carriera di autistico a San Lazzaro di Sabina, quindi non parlo lontano da qui, ed è diventato più grande, negli anni 72-73, giù di lì, si proprio ebbe lei la curiosità di sapere, ma è possibile che questo bambino sia io la causa di... E gli ha fatto fare la TAC, che allora era stata una novità importata dall'ente ospedale di Bologna, il sottoscritto aveva fatto l'importazione, ecco, dell'attacco del cervello, e da lì è apparso chiaramente che la corteccia era stata ridotta come spessore. Allora, queste cose tutti coloro che studiano le vaccinazioni sanno che esistono, il meccanismo però è molto chiaro, cioè c'è un'encefalite, un'infiammazione che provoca dei danni al cervello o altre parti del sistema nervoso centrale. Il problema adesso però è dire, dal punto di vista economico, come aveva detto il professor Cipolla prima, facciamo una bilancia di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. È vero che un bambino su 500.000 ha una conseguenza del genere, un altro bambino su 500.000 muore addirittura per la vaccinazione, ma dobbiamo chiederci che cosa succede se noi non facciamo la vaccinazione. Allora, non col vaiolo, che era quel flagello che ha detto il professore e che nella gran parte dei casi portava morte, quelli solo butterati, solo, ecco, erano quelli che si erano salvati, ecco, non solo, ma prendendo il morbillo, che la parola stessa dice piccolo morbo, no? Morbillo è morbus, vuol dire un piccolo morbo. Badate bene che 10 anni fa a Napoli, dove avevano smesso di fare la vaccinazione al livello del 90%, no? Sono morti 5 bambini in un anno. Il sindaco si è trovato costretto a ordinare la vaccinazione contro il morbillo, che allora, come fino a 10 giorni fa, era volontaria, non era obbligatoria. Era consigliata, ma non obbligatoria. Leggasi, consigliata vuol dire che il servizio sanitario te la pagava, se tu andavi lì te la faceva, ma non era obbligatorio. Questo vi dà l'idea, no, della differenza, no? Uno su 500.000 vuol dire uno su tutti i nati oggi in Italia in un anno. A Napoli, vabbè, a Napoli 10 anni fa c'erano ancora diversi bambini nati, ma si parlava di decine di migliaia, e su decine di migliaia il morbillo si è portato via, facendoli proprio morire, 5 bambini. Allora, la bilancia pende nettamente a favore di coloro che dicono si deve fare la vaccinazione. E però vaglielo a dire a quella mamma, a quel papà che hanno portato il bambino sano a fare la vaccinazione, quell'unico bambino in Italia che l'hanno portato a fare la vaccinazione, l'hanno portato indietro morto o con deficit cerebrali enormi. Vaglielo a dire. Proprio su di loro quindi si è incentrata una serie di, chiamiamole pure, di ruberie, no? Di ciarlatanerie, che non sono state fatte dall'ultimo ciarlatano in circolazione, ma sono state fatte da medici, perché questo è il dramma. A Napoli non è un caso che c'è un medico, non c'era, ho detto c'è, dottor Borghese, se volete proprio, nome e cognome, no? Ecco, tra l'altro uno che faceva e fa come mestiere il foniatra, un medico foniatra, e pareva anche che lo facesse bene. Io non voglio entrare nella professione, non certo voglio, però era uno che aveva un certo nome. Questo si è aggregato a quella banda di matti che veniva dagli Stati Uniti sotto la sigla DAN, punto esclamativo, che raccontava in giro che la vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite, gli orecchioni, per chi non sa i termini medici, La vaccinazione, la trivalente contro, che è una vaccinazione anch'essa fatta con virus attenuati, vivi attenuati, mentre ormai tutte le altre sono fatte con pezzi di virus che provocano l'immunizzazione, ma non sono virus viventi. Quindi se la sono presa contro la trivalente dicendo: da quando si fa la trivalente sono aumentati moltissimo i bambini con autismo. Allora, all'inizio sembrava quasi che la corrispondenza ci fosse, all'inizio, perché effettivamente all'inizio degli anni 70, metà degli anni 70, questa vaccinazione si è diffusa a partire dai paesi più industrializzati anche in Italia. E guarda caso, in quello stesso periodo si è cominciato a registrare un aumento dei casi di autismo. Non solo, ma approfittando del fatto che la vaccinazione viene fatta di solito a bambini piccoli piccoli, no? Bambini dai 2 mesi ai 2 anni, 3 anni, è lì che cominciano le vaccinazioni a farsi. E la scoperta dell'autismo, che viene fatta in genere nei primi 3 anni di vita, anzi per disposizione, cioè l'autismo per essere classificato come tale deve mostrare i primi segni di sé entro i primi 3 anni di vita. Quindi, avendo questa coincidenza, siccome la gente, tutti noi siamo portati a pensare post hoc propter hoc, come dicevano i vecchi latini, no? Cioè, essendo avvenuto questo dopo quest'altro fatto, vuol dire che quell'altro fatto ha provocato questo, che non è che sia sbagliata del tutto, qualche volta è così, ma non sempre, anzi molto spesso ci sono le coincidenze temporali. E allora, approfittando di questi due fatti, e questa banda Dan, punto esclamativo, con l'appoggio, badate bene, negli Stati Uniti della famiglia Kennedy, allora voleva dire molto, no? Con l'appoggio di Hollywood, gli attori di Hollywood erano tutti a fare spot per questo tipo di... hanno cominciato a trasmettere nel mondo l'idea che l'aumento della vaccinazione trifalente era in contemporanea con l'aumento dell'autismo, e quindi questo era il motivo per cui i bambini diventavano di più autistici. Più bambini diventavano più autistici. Allora, dobbiamo a questo punto identificare bene la storia. Intanto, dopo gli anni, all'inizio degli anni 80, all'inizio degli anni 80, sicuramente negli anni 90, la trivalente si è diffusa dappertutto, nonostante queste accuse, no? E guarda caso, mentre la trivalente si è ovviamente fermata come frequenza di vaccinazioni, l'autismo ha continuato a salire. Oggi come oggi, in America, negli ultimi 12 anni, l'autismo si è raddoppiato come frequenza. È passato da 7,5 su 1000, è passato a 15 su 1000. In quanto? Quanti anni? 15, dall'anno 2000 all'anno 2010. Porca troia. Di bello c'è che nel 2012 si è fermato lì. Ma sapete cosa vuol dire un bambino 0,5 su 100, 15 su 1000 la stessa cosa? Vuol dire un bambino su 68 ha l'autismo. È vero che loro ci stanno molto più attenti, è vero che loro proprio per maggiore attenzione ne scoprono di più. C'è stato uno studio del nostro miglior centro di epidemiologia, quello danese, che ha detto: di questo aumento enorme che c'è stato anche in Danimarca e anche da noi, anche dovunque, no? Circa il 60% è dovuto a una maggiore attenzione della diagnostica, quindi a un miglioramento della diagnostica, cioè il fenomeno è sempre lo stesso, non è aumentato. E però, avendoci fatto più attenzione, ne ha scoperti di più. Ma il 40% no, quindi c'è un 40% da spiegare. E come spiegare se non dicendo che effettivamente il fenomeno è aumentato? Quando hanno visto che non c'era più coincidenza tra aumento delle vaccinazioni che si erano fermate, anzi proprio per la loro azione stavano diminuendo, e l'autismo che invece continuava ad aumentare, hanno smesso di dire questa balla del post hoc propter hoc, in pratica, no? e hanno cominciato a dire: ma no, forse c'è qualcosa di razionale in tutto questo. Negli anni, pensate un po', negli anni 80 c'era stato qualcuno che aveva detto che l'autismo derivava da un errore, tra virgolette, del nostro intestino. Il nostro intestino lascia passare del glutine e della caseina senza averlo digerito, lo lascia passare direttamente nel sangue. Il sangue porta queste particelle, no? Le porta al cervello, non si sa come, passa anche la barriera encefalica e si comporta nei confronti del bambino come se fosse un'iniezione di eroina. In effetti, se voi guardate il bambino con autismo, ha delle similitudini. Per esempio, il bambino con, non tutti, ma una parte buona di bambini con autismo, sembrano non sentire il dolore, si inzuccano contro un tavolo, non piangono, non dicono niente. Ho fatto un esempio, ma anche quell'agitazione psicomotoria ce l'hanno loro come ce l'hanno quelli che si sono drogati. Tant'è che quel ragazzo che aveva la sfortuna di essere nero e autistico e l'hanno trovato sotto un ponte, la polizia cosa ha fatto? L'ha preso, ha chiamato il pronto soccorso e l'hanno mandato subito in ospedale perché pensavano che fosse uno spacciatore di droga che si era mangiato l'ovulo di eroina e che si era rotto e stava per morire. Invece no, era solo un ragazzo autistico che non aveva nessuna eroina in pancia. Allora, cosa hanno pensato? Hanno pensato che con questo meccanismo, che oltretutto in America ha attecchito molto, no? L'idea che il nostro intestino influenzi molto il nostro cervello, no? Hanno pensato che ci fosse queste micro lesioni dell'intestino provocate da che cosa? Secondo voi? Ovviamente dai vaccini. Siccome nel vaccini viene messo in qualità di conservante da un lato e di favorente l'immunizzazione dall'altro, il timerosal, che è un sale organico di mercurio, loro hanno fatto questa bella teoria. Il mercurio non fa bene, lo sappiamo tutti, no? Sapete che Alice col cappellaio come si è trovata? Il cappellaio di Alice che cos'era? Cappellaio matto. E questo perché? Perché i cappellai che usavano la biacca e usavano praticamente un composto di piombo per irrigidire i cilindri, usandolo loro, diventavano matti. In effetti, molto più vicino a noi, nel 1968, la prima ricerca che io ho fatto dopo la laurea è stata proprio sui lavoratori della ceramica del comprensorio Fiorano Sassuolo Maranello. Questi avevano nel 30% dei casi un'intossicazione da piombo, perché il colore che veniva messo nel piastrelle e la procedura che era il cosiddetto biscotto, che veniva cotto due volte, portava un pasticcio di un polverone di piombo ovunque, dovunque, addirittura quello che veniva espulso veniva a ricadere sui campi, le vacche lo mangiavano e i bambini si trovavano anche loro, quelli che bevevano il latte, si trovavano anche loro intossicazione da piombo. Ecco, sarebbe una cosa da scriversi sopra un romanzo, perché purtroppo dopo che io e altri professori della medicina legale avevamo fatto questa constatazione, alla fine ricevemmo una sbella spaventosa in testa quando gli operai stessi dissero: a noi va bene così. D'altra parte, sapete, da un lato c'era la fame ancora di quelli che scendevano dalla montagna, di quelli che venivano su dal sud, e dall'altra c'era questo fenomeno in piena espansione, perché noi abbiamo piastrellato il mondo con Fiorano Sassuolo Maranello, e quindi le cose sono andate avanti così finché non c'è stato, per fortuna, la crisi energetica. Allora hanno tirato fuori i brevetti che pur avevano della monocottura, e facendo la monocottura c'è stato un abbattimento drastico del veleno, del piombo che girava. Ma il timerosal intanto non è il sale organico di mercurio che fa male, ma è un sale organico di mercurio che non è quello che fa male. In ogni caso, prendere del mercurio, iniettarlo, non è mai la cosa che io vi consiglio, né per voi né per i vostri figli. Ecco, su questo non ci piove. Ma proprio per farli contenti, 15 anni fa, hanno smesso di metterci il timerosal. appena cambiato, mettendoci un altro sale di alluminio con la stessa funzione, immediatamente questi cosa hanno detto? È la stessa cosa di prima, senza neanche aver visto le conseguenze. Subito hanno detto, ah, avete cambiato il sale, non importa. Loro se l'hanno presa con questi sali di mercurio perché sono i metalli pesanti. L'alluminio non mi torna che sia un metallo pesante. Ecco, anzi, credo che sia uno dei metalli più leggeri. Ma perché fanno tutte queste cose, dicono tutte queste balle? Perché a seguito della diagnosi così, loro che cosa ti fanno? Una bella chelazione. Cos'è la chelazione? È quella che si fa normalmente quando con gli operai li trovi che sono intossicati da piombo. Uno dovrebbe dire la prevenzione prima di tutto, cioè evitiamo di. Infatti quando c'è stata la crisi, come ho detto, la crisi energetica, per risparmiare sul combustibile, la situazione è migliorata anche per gli operai. Però ricordatevi bene che la chelazione viene fatta quando uno si trova con dei parametri che sono riconosciuti a livello internazionale come parametri di intossicazione. Il diritto, no, di queste che sta sotto questa balla, no, ecco, è chiaramente è un diritto fasullo, cioè quello che i genitori, no, quello che i genitori chiedono di non vaccinare i propri figli, no, poggia su basi teoriche balorde, come vi ho detto, perché non è vero che l'autismo sia provocato dal vaccino e tantomeno dal vaccino trivalente. Anzi, vi dirò di più, che io proprio domani porto ai Lions, lui non lo sapeva, ma è così, no, domani porto come tema... Non sapevo niente. Scusate. Non sapeva nulla, no, davvero. Ma lui ha visto che mi sono messo la cravatta, allora ha detto, adesso ti chiamo che fai dall'altra parte. Io domani porto come tema nazionale dei Lions Club a Roma proprio questo, vaccini e autismo. Questo per darvi l'idea, in anteprima vi dico questo, ma vi dico, il diritto è che poggia su basi irrazionali come queste, no? È un diritto chiaramente di una persona disinformata. Negli anni 90 c'è stato un medico che, avendo capito che la storia del mercurio non era più razionalmente proponibile, si è fatto una bella ricerca su 11 bambini, questo in Inghilterra, non nella Tanzania. Questo medico si chiama Wakefield, W-A-Wakefield si scrive, no? Wakefield, il dottor Wakefield, ha fatto una ricerca su 11 bambini facendo la biopsia intestinale e andando a prendere i pezzettini d'intestino dei bambini autistici, ha scoperto, ha detto lui, che tutti e 11 avevano un'infezione cronica di virus del morbillo nell'intestino. Ha scritto un articolo che è andato su The Lancet. Non so se sapete, in termini di medicina, The Lancet è quello che ti dà più punti del mondo, no? Perché Lancet è come Nature, insomma, sono quelle grandi riviste sulle quali, appunto. E questo articolo, una volta apparso, diceva il vaccino non viene estirpato, il virus del vaccino, anzi questo virus si incapsula, continua a funzionare, a lavorare, sia pure senza dare eclatanti segni della sua presenza, continua a funzionare per anni. Questo vaccino, questo virus del vaccino, va a fare tante, diciamo, tante fissure piccoline nell'intestino. E da lì passa, che cosa? Passa la caseina e passa di nuovo, ha ripreso la cosa di prima, passa la caseina e passa il glutine, che arriva poi al cervello e anche lì non si sa come passa la barriera encefalica e va a comportarsi come se fosse una droga, esattamente come sopra, cambiando però uno dei passaggi. Ora, questo tizio che ha fatto questo articolo, ci sono voluti 11 anni perché Lancet dicesse che era una porcheria. Ci sono voluti 11 anni. Ci sono voluti che gli altri 10 che avevano firmato il suo articolo avessero ritirato tutti la loro firma. C'è voluto il fatto che i pezzettini bioptici che erano stati tolti ai bambini, si andasse a scoprire che non c'erano più, dov'è che caso, sono spariti. Questo si è scoperto anche che aveva lui, tra virgolette, fatto 500, più di 500.000 sterline con perizie sui bambini che dicevano ai genitori e al giudice che quel bambino era autistico perché era stato vaccinato. Voi sapete che giustamente la nostra società, così come compensa uno che si è fatto una ferita in guerra molto di più di uno che si è fatto una ferita giocando a 3-7, lo compensa con una pensione che è una pensione privilegiata di guerra, e lo compensa proprio perché, essendo una guerra quella che noi facciamo contro le malattie, è giusto che quelli che sono i caduti in questa guerra vengano quantomeno indennizzati più degli altri che si sono fatti la stessa roba giocando a 3-7. In questo modo i genitori chiedevano al sistema sanitario nazionale inglese un risarcimento molto maggiore che non quello che si dà per una persona che è semplicemente soltanto disabile. Quello che è successo in Inghilterra è successo anche da noi. Qui da noi c'è il dottor Verzella a Bologna, ma faccio nome e cognome così lo sappiamo, no? Tanto sono pubblici. Oculista, uno di quelli che ha firmato la petizione contro la linea guida dell'autismo. Perché chiaramente nella linea guida fatta da scienziati, lui che c'era lì al tavolo ha detto no, io non la firmo perché ritengo non vera. Sono stati due a non firmarla, il dottor Massimo Montinari, medico della Polizia di Stato, e il dottor Franco Verzella, oculista. Ma perché, se dite voi, succedono queste cose? Il dottor Massimo Montinari ha 3.000 bambini autistici da seguire. Ovviamente li ha per un anno, però ogni anno che passa 3.000 bambini ti danno 900.000 euro. Non è poco. Perché come visita? A 3.000 bambini. Perché ce li ha? Perché lo devi dire tu con la sociologia, appunto. Perché i genitori di oggi sono così, non diciamo il nome, no? Da credere a queste panzane. Ah, perché è... Non ho capito. Perché i social continuano a propagandare queste balle? Perché? Me lo deve dire lui, lo provoco. Lui ha provocato me, ma adesso provoco io lui. Sì, no. Ecco. Ma voi sapete che ci sono più di 8 milioni di italiani che si servono delle cosiddette alternative? Ora, il placebo fa sempre bene nel 20-30% dei casi, quindi è giusto usare anche il placebo. Ma gente che va a comprare questi prodotti, sapete che Montinari ai suoi 3.000 bambini prescrive la omotossicologia. Voi non sapete che cos'è? Sono arrivato. La cuna terribile, non la guna. Perché la ditta guna è quella che produce i prodotti omotossicologici. E fanno, per questi 3.000 bambini, fanno 9 milioni l'anno di fatturato. Non è poco. E l'omotossicologia che cos'è? Si prende un nervetto, si mette in un pentolone di acqua pulita di 5 litri, si mescola in senso orario, mi raccomando, se no non viene. Ecco. Poi da lì si prende una goccia, la si mette in un altro pentolone e così via fino al 33° pentolone. Uno, per avere quel pezzettino di nervetto che è stato messo all'inizio nel 33° pentolone, è una sfortuna colossale. Però questo nervetto non è un nervetto umano, cosa avete pensato? No, è un nervetto trovato al macello, era il nervetto delle vacche. Quando è arrivata la vacca pazza, disastro, come facciamo? Non possiamo più usare il nervetto perché i prioni sono piccoli, piccoli, piccoli e si possono trovare anche nell'ultimo pentolone. Sfortuna malefica, però può essere. Allora cosa hanno fatto loro? Hanno cambiato bestia. Hanno preso il maiale perché la vacca pazza c'è, ma il maiale pazzo non c'è ancora. E quindi prendono i nervetti, il nervetto oculare, tutti i nervettini, no? E con quelli fanno dei prodotti che si chiamano omotossicologici. E la gente li compra e spende 300 euro al mese per comprare sta roba. Non solo, ma questi prodotti vengono inseriti con dei piccoli aghi ipodermici, credo che si chiamino così, insomma, con gli aghi piccolini, Per cui svegliano pure il bambino la notte per fargli sta punturina sotto pelle. Cioè cose, questi i genitori oggi, capisci? Noi abbiamo adesso, dobbiamo passare. Quindi veramente, insomma, io mi chiedo, il diritto può essere esercitato, come si sa, quando uno sa che cosa va incontro. Sì. Deve sapere. Cioè, il consumatore in sanità, purtroppo, è un consumatore estremamente debole. Sì, e per questo motivo è nelle mani delle varie, chiamiamole, storie metropolitane che circolano, e circolano più frequentemente loro che quelle che sono le verità. Quindi, questa storia, no, la vaccinazione, secondo me proprio è emblematica. Emblematica dal punto di vista dello studio dell'etica, perché c'è un'etica sociale che ci sta dietro, emblematica dal punto di vista della consapevolezza del consumatore, emblematica anche delle truffe che questi medici fanno. Pensate che sul bollettino dell'Ordine dei Medici del 2011, con questo finisco, è stato pubblicato un articolo di quello che aiutava Franco Verzella, che si chiama Zanella, il dottor Zanella. Tutti e due oculisti. Voi dite, ma proprio un oculista? Eh sì, perché quando uno è medico può fare un po' tutto, no? Perché è medico. Ecco, io non mi farei mai operare da mia moglie. Ottimo medico, ma pessimo chirurgo. Questi due oculisti fanno queste cose qui. Prendono il bambino, gli fanno la, questa che ho detto, che si chiama chelazione, una fleboclisi inserita dentro che prende, immagino, la sostanza chelante, va a prelevare, tra virgolette, no, le particelle di metalli e le porta possibilmente fuori, possibilmente. Le altre si fissano invece nelle ossa. Però capite, per una falsa intossicazione da piombo, perché non è mai possibile che un'iniezione di vaccino dia un'intossicazione da piombo, non è assolutamente possibile. Voi adesso state respirando mercurio e piombo, non so se lo sapete. Quello che voi respirate normalmente nell'aria è quello, è molto di più di quello che è contenuto nel vaccino. Quindi non può essere un'intossicazione, ma facendo finta che sia un'intossicazione, fanno una terapia finta che è la chelazione. Mi pare che le cose tornino. Quell'altro fa prendere le terapie, ricordate, si chiamano omotossicologiche, non omeo, omo, che dimostra che non sapeva neanche il greco, perché avrebbero voluto dire omeotossicologico. Però uno può essere un grande inventore. Questo è, le chelazioni fatte ai bambini, ai nonni, eccetera, fruttano 150 euro ciascuna. Un ciclo di 10 fa 1500 euro. Poi quando uno di questi soggetti entra in casa, dice, lei il nonno, ah ma guardi, anche contro l'arteriosclerosi va bene la disintossicazione. E allora, invece che prendere l'acqua vera, è quella che dà, fa la, qual è quell'acqua che, cioè invece che prendere quell'acqua minerale, no, che fa puliti dentro e belli fuori, fanno una detossificazione con una fleboclisi. Poi c'è un altro che per esempio prende una pomatina e fa spargere la pomatina sulle braccine e le gambine, perché così in questo modo, con questa pomatina sempre contenente la sostanza chelante, il bambino dovrebbe purificarsi. Allora, voi sapete che, guarda caso, la Food and Drug Administration, quei cattivoni, no? Quei cattivoni della Food and Drug Administration non hanno ammesso questa pomata nella farmacopea ufficiale. Motivo? Perché non passa la barriera della pelle. Quindi è perfetto fare una falsa terapia per una falsa intossicazione. Tutto torna. Grazie. No, grazie. Allora, come avete visto, se non lo fermavo domani mattina ci eravamo ancora qui. Io non lo sapevo però, io pensavo facesse un intervento per agitare le acque, in realtà ha fatto una relazione, ti ringrazio, anche perché evidentemente andando domani a Roma ai lunch nazionali è evidente che si era preparato, se no tutte queste cose analitiche te le ricordavi. Comunque grazie, avete visto la sua tesi, insomma in fondo il diritto esiste solo di fronte alla verità a una verità scientifica, altrimenti ognuno può affermare il proprio diritto, e questo riguarda anche il dovere, perché poi le due cose si inseguono. Adesso noi però passiamo alla seconda parte, no, di questo nostro lavoro, che è la presentazione di un libro. Invito il professor Andrea Bassi dell'Università di Bologna, il professor Alessandro Fabri sempre di Bologna, il professor Alberto Gasparini dell'Università di Trieste, Gorizia e dintorni, il professor Mauro Moruzzi dell'Università di Urbino e Milano e quant'altro, e il sottoscritto, che però parlerà per ultimo e che adesso si limiterà a dare la parola. E sottolineando che presentiamo questo libro, che è un libro che, diciamo, chiude secondo me a questo punto un ciclo, che era un ciclo dedicato al professor Rodrigo, un ciclo di libri nei quali io ho lavorato e ho contribuito insieme ad altri, ovviamente, il primo nel 97, poi insieme al professor Moruzzi nel 2009, insieme a colleghi nazionali Cipriani, Colasanto, D'Alessandro nel 2010, sempre insieme a Moruzzi un altro volume sugli scritti inediti, quell'idea era stata sua, però ancora un penultimo, Cipolla, Colozzi, Moruzzi su Ardicò e Bologna, e infine quello di oggi, che è un testo invece che come dire, ci propone un Ardigò impegnato socialmente e istituzionalmente. Questo lo fa essere un unicum, perché nel contesto sociologico italiano, anche per la poca vita della nostra disciplina, non ci sono autori che hanno investito in questo modo. Noi siamo andati a recuperare, diciamo, i luoghi nei quali Ardigò ha sviluppato parte della sua attività di intervento più pragmatica, più specifica, e oggi rifletteremo su questo. Anche qui sicuramente lasceremo uno spazio per il dibattito, chi vuole intervenire può ovviamente intervenire e dire la sua. Il testo, come vi dicevo, chi lo vuole, a favore dell'associazione di Ardigò, è in vendita, in uscita a 20 euro. La cosa che emerge poi da questa ricerca è la coerenza morale profonda e politica profonda di Ardigò. Lo dico perché sto dedicando un po' di tempo, no, ho già scritto un 500 pagine a quello che è stato considerato il più grande filosofo del Novecento europeo e quindi di fatto mondiale, che è Cotal Martin Heidegger, il quale questa coerenza morale politica è, e non l'ha avuta. A un certo punto si è sviluppata una ferocissima polemica sul fatto se il filosofo debba essere coerente o meno. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto e poi cedo subito la parola agli amici presenti, perché mi sembra un aspetto che storicamente resterà nella storia. Prego, professor, prendi quell'altro. Grazie. Il professor Andrea Bassi, che si è occupato di un tema molto peculiare nell'ambito. Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Mi hanno detto di parlare a voce alta perché non si sente tanto, rimbomba un po', ma il saggio che ho scritto, che è contenuto in questo volume, è un po', diciamo, eterodosso rispetto agli altri saggi, perché in effetti il volume rende conto dell'attività istituzionale del professor Ardigò, quindi raccoglie e commenta i saggi, le opere,